La campagna lanciata oggi Andrà Tutti in Bici, c'è anche un sito andratuttiinbici.it, vuole parlare a tutte quelle persone che non si sono ancora spostate mai in bicicletta, ma con questa fase 2 vedono nuove opportunità e nuove necessità, perché ci siamo tutti resi conto dell'importanza di puntare sulla nostra salute, quindi abbiamo bisogno di stare all'aria aperta, abbiamo bisogno di rafforzare il sistema immunitario e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che la bicicletta è il mezzo ideale. Confermato anche dal decreto economico dello Stato, che ha stabilito un bonus per l'acquisto di nuove biciclette. Sì, abbiamo 500 euro di incentivo sull'acquisto di nuovi mezzi, un contributo importante che consentirà a tante persone di fare il passo decisivo, magari nell'incertezza, e soprattutto di acquistare anche un buon mezzo, perché è un incentivo che copre fino al 60% del costo, quindi buono anche per bici elettriche, ma anche per bici muscolare di livello, perché insomma la bici è come un vestito, deve calzare bene, è importante investire anche in un buon lucchetto, perché sappiamo che a Bologna i ladri non perdonano, ma abbiamo le nostre armi, abbiamo i nostri antifurti. Ci saranno anche dei riconoscimenti sul codice della strada, Simona? Allora, il decreto che è stato varato ieri dal governo prevede l'istituzione delle bike lane, che sono delle corsie ciclabili o fasce ciclabili, che sono di facile attuazione per i comuni e che sicuramente potranno aiutare a fare interventi più rapidi e più veloci rispetto alle vecchie norme delle piste ciclabili, che erano molto impegnative per i comuni e quindi diciamo scoraggiavano a intervenire. Sono state approvate anche le case avanzate, purtroppo mancano ancora dei provvedimenti piuttosto importanti, come il doppio senso ciclabile, un provvedimento che noi conosciamo ormai a memoria perché sono 8 anni che come Salve Ciclisti lo chiediamo, tutta Europa è presente da più di 20 anni e l'Italia è rimasta indietro su questo. Torneremo sicuramente alla carica perché i ciclisti hanno bisogno di spostarsi in sicurezza. Intanto noi cerchiamo di dargli messaggi positivi, perché Andrà Tutti in Bici vuole prima di tutto essere una campagna positiva. Troverete dappertutto i nostri cartelloni gialli, se li trovate fotografate, taggateci Andrà Tutti in Bici con l'hashtag, che così le rilanciamo e ci teniamo in contatto, perché distanti ma vicini sicuramente in bici si può fare.